Granada, bien sangrentada, sentadas de todos. Verme con serva del brujo de los ojos moros. El señor verde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, tu voz avanzada que me habla de amor. Granada, amadora, cantada en poblas preciosas, donde no habrá cosa que darme que un ramo de rosa. De rosa de suave fragancia que le diera el marco a la Virgen Morena. De sangre y de sol. De rosa de suave fragancia que tiene en el marco la Virgen Morena. Thank you. dopo a sfiorarla ancora. Dille che io amo, che il cor mio l'implora. Dille che io fremo dalla gelosia solo al pensiero che la baci tu. Vengo, vengo, portami via con te, tu che conosci tutte le mie pene. Dille che ancora le voglio tanto bene, sotto le stelle chiare, forse ritornerà l'amore. Vengo, vengo, portami via con te. Sotto le stelle chiare, forse ritornerà l'amore. Vengo, vengo, portami via con te. Sussurra il vento come quella sera, perché non torni? Fronte a te, lieti calici per la bellezza di Fiora e là fuggevo l'ora sinebria voluta di viarne i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio alla cuore ogni possenteva viviamo amore, amore fra i carici più caldi baci avrà 到歌舞剧场，我是古月。接下来请欣赏1988年6月多明戈与凯瑟琳·巴特尔在东京音乐会的精彩现场。列文指挥梅特罗波利坦歌剧院管弦乐团担任器乐部分的演奏与伴奏。音乐会的曲目有《命运之力》序曲、歌剧《茶花女》中的二重唱《离开巴黎的日子》、唐帕斯奎莱先生中的咏叹调《姑娘的秋波》、拉美摩尔的《露西亚》中的咏叹调《你张开了升天的双翼》、《爱之甘醇》中的咏叹调《亲爱的酒》、《意大利女郎在阿尔及尔》的序曲等。下面请连续欣赏。 tanto c'è da m'invana senza desistere non potrei ma se poi vedo ma hai trovato pure nelle cieli ma io scorda la panna donna brava a me perdona il genio chiede perdono la mia sonia ma sono morta mi rende non lo amo nemo l'angio mio ma il mio di vedermi potrà da me non lo amo nemo l'angio mio ma il mio di vedermi Thank you. splende il castello, passa disperato pianto. Tu ridi e esulti accanto al felice consorte. Tu dalla gioia in seno, tu dalla gioia in seno, la tua virtù se non bevuto ancora di tanta gioia già mi colmi il pe, ma per perché mai l'effetto non ne possio vedere prima che un giorno interno non sia trascorso beva sì o buono o caro un altro sorso comincia a sentire certo la sente me l'annunzia la gioia per appetito e in me si risvegliò tutto in un tratto ma no, non ci appressiamo dei miei sospiri non si stanchi però tant'è domani adorarmi dovrà quel cor spietato un'opera, così per una prova. Di soffrir preghiera, dimenticar voglio spero. Quell'antico fuoco si estinguerà fra poco. Ancora un giorno solo e il cuore guarirà. Thank you.